L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. È il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi un'altra Europa. Radio 24 segue quotidianamente quella che è l'attualità europea. Noi di sabato cerchiamo altre sfumature, altri punti di vista. Un programma in collaborazione con il network Euronet, www.euronet.eu, il sito dove potete trovare aggiornamenti su tutta quella che è l'Europa raccontata a più voci. Sicuramente un punto di riferimento sempre più importante per chi è interessato a quello che succede nell'Unione Europea. Oppure ci trovate nelle nostre pagine ufficiali in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. Lì aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link che andiamo a toccare, a sfiorare durante la puntata, ma lì anche potete intervenire con i vostri messaggi o in diretta con la chat o via sms al 349-238-6666. Queste sono tutte le coordinate per seguire. Noi quindi iniziamo il nostro viaggio e iniziamo con una lingua particolare, una lingua europea. Questo è una sorta di esperanto europeo, l'europanto cantato da Paolo Bergamaschi. Questa è la voce di Paolo Bergamaschi che già abbiamo conosciuto all'Altra Europa, è stato con noi l'ultima volta anche in diretta dal Salone del Libro di Torino. Lui lavora al Parlamento Europeo, e in particolare nella Commissione Affari Esteri, se non erro, e oggi l'abbiamo convocato per così avere una sorta di voce là dal Parlamento a poche ore dall'inizio della plenaria. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Stai bene? Benissimo. Perfetto. Allora, con Paolo, appunto, chiacchierando in preparazione della puntata, no? Perché si parla tanto anche di quelle che sono le istituzioni europee, poi di fatto poco si conosce. E allora mi ha detto, dai, ogni tanto magari facciamo anche delle piccole lezioni di Europa, però dal di dentro, per capire anche quello che è il polso della situazione lì dentro al palazzo. La plenaria, Paolo, che cos'è e perché è un appuntamento importante? Allora, il Parlamento europeo, come tutti i parlamenti, è strutturato in riunioni di commissione. I parlamentari sono divisi in 20 commissioni parlamentari per quanto riguarda il Parlamento europeo, più ci sono le riunioni di plenarie dove tutti i 736 parlamentari eletti si riuniscono assieme per varare le direttive o i regolamenti comunitari per discutere delle varie questioni di attualità che coinvolgono l'Europa o alcuni dei paesi europei. Quindi è un appuntamento tutt'altro che formale, cioè è concreto, no, si fanno cose. Rispetto, diciamo che per ovvie ragioni logistiche di spostamento, il calendario del Parlamento europeo è stabilito con un anno d'anticipo, per cui i parlamentari sanno già come programmare la propria attività per l'anno successivo, contrariamente a quello che avviene per il Parlamento italiano, che decide di settimana in settimana come il calendario parlamentare. Perfetto. Questa è la differenza sostanziale. Allora, dal 4 luglio a giovedì 7 luglio a Strasburgo, e la sessione plenaria del Parlamento europeo. Cosa succederà? Qua ti chiedo di uscire invece da quello che è l'ordine del giorno ufficiale, ma cosa vi aspettate da queste tre giorni? Innanzitutto bisogna capire come funziona il Parlamento europeo, nel senso che il Parlamento europeo ha tre sedi, che sono Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo. Perfetto. Per obblighi di trattato, nel senso che è stata un'imposizione francese, 12 volte all'anno la plenaria del Parlamento deve riunirsi a Strasburgo, per cui 3.000 funzionari devono spostarsi da Bruxelles a Strasburgo con tutto quello che comporta in termini di conseguenze, di costi, di impatto ambientale, di scomodità della cosa. È un'imposizione che ci è venuta dalla Francia proprio per garantirsi un minimo di indotto, per garantire un minimo di indotto alla città di Strasburgo, che è stata tradizionalmente, che rappresenta il simbolo dell'alleanza franco-tedesca dopo anni e anni e anni e secoli di guerra fra di loro. Sì. Bene, i temi principali che saranno all'ordine del giorno di questa seduta, proprio toccandone due o tre, per esempio vedo davanti a me che c'è la questione degli organismi modificati geneticamente, per esempio la coltivazione in campo aperto degli organismi modificati geneticamente, c'è la questione per esempio della revisione del trattato di Schengen, ma c'è soprattutto, e questo voglio sottolinearlo, c'è l'esordio della presidenza Polonia, infatti, polacca, della presidenza della Polonia, e questa è una premiere, nel senso che è la prima volta in assoluto che la Polonia è ai vertici dell'Unione Europea. Che tra l'altro quindi... c'è attesa, perché insomma il primo ministro polacco ha fatto anche proclami interessanti, no? Vuole fare questa entrata quasi da protagonista. Leggevo proprio oggi sui quotidiani anche che hanno chiesto di partecipare anche alle riunioni sull'euro, e che di fatto loro non ce l'hanno, però in preparazione anche all'arrivo della moneta unica nella loro nazione, insomma vogliono lasciare il segno. Queste almeno sono le attese. Tu devi renderti conto, e i radioascoltatori immagino lo sappiano, che il colosso dei nuovi paesi che hanno fatto il loro ingresso nel 2004-2007 nell'Unione Europea è la Polonia, è la vera potenza orientale la Polonia, 40 milioni di abitanti, ma soprattutto un'economia in grande crescita, un boom economico incredibile per i paesi tradizionali dell'Europa occidentale, ed è un paese in ascesa sicuramente, certo, destinato, che vuole lasciare un segno nelle istituzioni europee. Mm-hmm. E si parlerà anche di Russia, che so che è un tema comunque a te caldo, perché spesso frequenti le zone ai confini, sì, dell'Unione Europea. Questo mi tocca da vicino, perché infatti in questi giorni, e già prima che voi mi chiamassi, stavo preparando la risoluzione appunto sulla Russia e sull'ultima decisione del Ministero della Giustizia russo, che ha impedito al Partito Liberale di registrarsi come partito, quindi di presentarsi alle prossime elezioni. Questo è uno dei temi dominanti che sarà all'ordine del giorno, certo, dove si invierà un nuovo appello alla Russia cercando di sollecitarla ad adottare standard occidentali per quanto riguarda il pluralismo in democrazia e tutta un'altra serie di riforme che non sono ancora state effettuate. Paolo, grazie davvero. Una data, non c'entra niente, ma insomma il 12 luglio leggo nello spazio concerti del Parlamento di Bruxelles terrai un concerto col tuo gruppo, perché insomma sì, sappiamo, certo, ma certo, c'è uno spazio onore, concerti sì. È la prima volta? No, hanno già fatto un altro 7 anni fa, sempre, quindi è un ritorno. Ah, grande, insomma, vedi quello che succede, insomma, dentro al palazzo c'è anche modo, certo, di contaminarsi. C'è anche uno spazio pubblico per concerti che viene abbondantemente utilizzato, ovviamente bisogna prenotarsi con un anno e mezzo o 2 anni di anticipo, perché tutti gli slot sono già abbondantemente occupati. paolobregamaschi.it è il sito per conoscere le attività di Paolo. Paolo, buon lavoro, grazie per averci fatto entrare lì. Grazie anche a Federico, noi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Skopje 2014. Седни конечно одлична идеја која од Скопје ќе направи метропола. За други, погубна политика која ќе докаже дека сепак сме паланка. Фонтани, згради, споменици и цркви од левиот и десниот брег на Вардар направија производствени погони за револт, на оние на кои им чини и на оние на кои не им чини. Quello che state ascoltando è un video promozionale su Skopje 2014. Siamo in Macedonia, è la prima volta che parliamo di questa nazione qui all'interno dell'altra Europa. Tra l'altro il video l'ho già caricato sulle nostre pagine in facebook.com/l'altra Europa. Insomma, a Skopje è nata una sorta di rivoluzione architettonica. C'è un progetto per abbellirla, tra virgolette, e questo progetto ha avuto in questi giorni una fase abbastanza eclatante, con una coda di polemiche, tutta legata a un controverso ed enorme monumento ad Alessandro il Grande, voluto dal premier macedone. Ufficialmente è stato denominato il guerriero a cavallo. Finalmente eretta questa statua di bronzo alta quasi 30 metri nella piazza di Skopje, ha creato un po' l'ilarità anche della popolazione, perché è veramente immensa, ma anche tante diatribe anche culturali. Insomma, per capire quello che sta accadendo a Skopje abbiamo cercato una voce, questa voce l'abbiamo trovata, quindi sono ben felice di poter dare il benvenuto all'altra Europa Zivko Grozdanovski, giovane scrittore macedone di 24 anni, laureato in lingua e letteratura italiana, ha pubblicato già 2 libri, è stato invitato a novembre anche alla Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo, quindi una voce sicuramente lucida. Ciao Zivko. Ciao, benvenuto, come stai? Bene, grazie. Ho sicuramente errato sia il tuo nome che il tuo cognome. Ce lo vuoi pronunciare tu correttamente? No, il cognome andava bene. Il nome è Zivko. Ok, con la Z, perfetto. Ecco. Cosa è successo? Cosa sta succedendo a Skopje? Come mai questo bailamme, tutta questa confusione legata a una statua, a un monumento? Tutto tutte le cose, tutto il casino che succede non è a causa della statua, cioè Alessandro non è la causa principale di tutto questo, è tutto il progetto Skopje 2014. Alessandro, diciamo, in un certo modo ha reso palese questo progetto scandaloso a livello internazionale. Mm-hmm. Allora, è successo che un giorno è stato pubblicato su YouTube un video dove era presentato questo progetto 2014, scoppio 2014, e quindi si annunciava la costruzione di tanti monumenti, di tanti edifici. Sì. E questo ha provocato subito, ha suscitato, diciamo, lo scandalo. Era molto, molto controverso, perché subito la gente ha cominciato a chiedere quanto costerà, dove saranno messi le statue e tutto quanto. Ma di quante statue si parla? Non il numero preciso, non ci ho mai pensato, ma saranno, non lo so, una trentina, almeno una trentina, quarantina di statue. Mm-hmm. Si parla di un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, quindi una cifra notevole. No, il 10 milioni di euro è la cifra di Alessandro Magno. Ah, solo per Alessandro Magno? Sì, quindi Alessandro Magno costa 10 milioni. La cosa è che tutto il progetto costa 200 milioni di euro. Insomma, quindi ecco perché la coda di polemiche. Quindi 10 milioni di euro per questo Alessandro Magno, pesa 30 tonnellate. Leggo che questa statua è più alta di tutti gli edifici circostanti. Tu l'hai vista? Hai seguito? Sì, non è ancora costruita. Ieri leggevo l'articolo che ha scritto il nostro collaboratore dall'Italia. Sì. Quindi leggevo l'articolo proprio sulla piazza, in quel momento stavano, diciamo, è ancora a metà la statua, quindi è una fontana. Ho capito. Ti sento dubbioso. Zivko, ma com'è oggi Skopje? Com'è la Macedonia? Comunque una nazione viva? Adesso, al di là di questa polemica legata a questo restyling, una tua lettura? Ci sono molte controversie, perché da quando è uscito tutto il progetto, gli intellettuali si sono schierati contro, la maggior parte degli intellettuali si sono schierati contro il progetto. I professori dell'università di architettura hanno scritto degli articoli contro questo progetto. Una gran parte dell'opinione pubblica non vuole questo progetto. È interessante che il partito al potere gioca sulla carta, diciamo, del sentimento nazionale. Quindi non è facile dire che sei contro. La maggior parte dei macedoni, siamo franchi, no, non sono contro il progetto stesso. Sono contro tre cose, a parer mio. Sono contro il cattivo gusto, il fatto che le statue sono tutte piazzate proprio a un territorio molto limitato, quindi a volte si trovano statue che sono a una decina, un affollamento di quindi okay. Sì, è proprio affollato, è proprio ingombrata la piazza. L'altra cosa, che è la cosa più devastante, direi, è l'aspetto economico, cioè certo, il costo di tutto il progetto. Certo. Si parla di povertà in Macedonia. Da una parte è così, e dall'altra parte vengono investiti un casino di soldi in questo progetto. Ok, e quindi insomma immagino che sembra proprio uno schiaffo morale e non solo a chi veramente fa fatica, no? Si parla di disoccupazione, si parla di povertà, si parla di stipendi medi bassissimi, quindi immagino sì, la popolazione trovandosi davanti a questa cifra, certo che... No, è questo che provoca la, la indignazione, rabbia. Certo, e rabbia. Zivko, un'ultima domanda per te invece. È facile fare l'artista, fare l'intellettuale, fare lo scrittore oggi in Macedonia? Ah, è una domanda complessa. È facile, è sempre facile fare l'artista, ma è difficile durare in questa cosa. Cioè, uno oggi si parla molto di tanti artisti, diciamo, nella Macedonia, di tanti autori. Sì. Sono molti gli autori, ma sono sempre di meno gli artisti. Ok. E questa è la cosa. Non ci sono dei problemi, ma ci sono delle case editrici che sempre stimolano i giovani autori, e così che stiamo lavorando. Ok, in bocca al lupo, grazie davvero per essere stato qua con noi e salutaci la statua a questo punto, fatti fotografare vicino a lei, che ti devo dire, insomma, vi tocca e farete anche voi. Vabbè. Sono in tanti quelli che si fotografano. Immagino. Grazie davvero, ciao. Ciao. Ciao, buon weekend. Europostit. Matrimonio Galicnik. Il 12 luglio, durante la festa di San Pietro, locali e turisti sono invitati a partecipare alle celebrazioni delle nozze tradizionali macedoni a Galicnik, un villaggio antico nelle montagne occidentali, vicino alla località di Mavrovo. La festa dura 3 giorni con canzoni, balli, banchetti in costumi tradizionali e rituali che sono stati tramandati nei secoli. Sono considerate un evento proprio da vedere se si visita la Macedonia in luglio. Gli abitanti del paese sono così orgogliosi delle celebrazioni che ritualmente si recano anche alle tombe dei propri parenti defunti per invitarli a unirsi alla festa. Trovate più notizie su queste curiose celebrazioni sul sito del turismo macedone exploringmacedonia.com. The standards of the Open Geospatial Consortium are underpinning many policy, location policy strategies, not only a national but also an international level. For example, in the Netherlands and also in Europe, like the INSPIRE directive, the Spatial Data Infrastructure for Europe. And this is the reason why we are here in Edinburgh for the INSPIRE conference. Si può fare l'Unione Europea forse partendo anche questo può aiutare a contribuire, dalle cartine geografiche, insomma, che per noi che usiamo i navigatori, per noi che guardiamo le mappe, per noi che siamo abituati a vedere, insomma, le carte geografiche dell'Europa, diamo questo per scontato. Invece c'è tutto un lavoro sotto, un lavoro di implementazione dei dati per concordare, per fare una sorta di, appunto, di lavoro comune. E in questi giorni si sta tenendo a Edimburgo un convegno che si chiama INSPIRE, dove proprio il focus dei giorni di lavoro, ci sono centinaia di tecnici attorno a questi tavoli, il focus è proprio questo, cercare di creare una sorta di cartografia comune per capire quello che sta accadendo. Abbiamo un nostro inviato là, lavora in questo campo, anche lui è un tecnico, ma lì è anche in veste di facilitatore. Diamo il benvenuto ad Andrea Giacomelli dell'associazione Attivarti, attivarti.org è il sito. Ciao Andrea. Ciao Federico, buongiorno. Ho capito bene, state un po' giocando con le carte geografiche? Si sta un po' giocando, diciamo. C'è chi fa con le mappe le caccia al tesoro, qua si fa la caccia alla costruzione di una grossa mappa dell'Europa per dare, diciamo, una base per rispondere a delle grosse domande sul territorio in Europa. Mm-hmm. INSPIRE, già il nome, insomma, è molto evocativo. Fotografaci un attimo la situazione per capire chi siete, per capire cosa state facendo. Sì, beh, INSPIRE è una direttiva comunitaria che è stata approvata nel maggio del 2007 e che in questi anni sta seguendo tutto un percorso di, diciamo, di implementazione, di trasposizione, per arrivare idealmente al 2019 ad avere fatto quello che c'è scritto dentro. Che cosa c'è scritto dentro? Proviamo a sintetizzare molto brevemente. Forse si può capire bene se si fa, che l'Europa è grande, se si fa un esempio su una scala più locale, no? Mettiamo di avere un condominio, un quartiere con delle villette, ogni villetta ha una casa, un giardino, un garage, i giochi dei bambini. E ammettiamo che tutte queste case sono costruite in epoche differenti, sono state fatte da imprese di costruzione differenti, da architetti differenti. Nel momento in cui c'è un problema che riguarda può essere a cavallo di più villette. Per esempio, abbiamo perso il gatto, chissà dove sarà andato, perché può avere sconfinato. Piuttosto che stavo imbiancando la parete della mia villetta e mi si è rovesciato un secchio di vernice andando nel giardino dell'altro, dove andrà questa vernice? Il potere capire come o recuperare il gatto oppure andare a togliere la vernice presuppone poter mettere insieme le mappe delle varie villette fatte da architetti diversi in epoche differenti. Certo. Che portato a livello europeo vuol dire, che ne so, c'è un'alluvione tra due confini, devo capire quello che sta accadendo, devo capire quel territorio, devo capire come muovermi. Per quanto questo, diciamo, l'idea, anche magari l'impressione, non è che non ci siano, diciamo, delle mappe che già non funzionano a cavallo di confini, però in funzione di, a seconda del tipo di problema che può riguardare il traffico terrestre, il traffico aereo, la protezione civile, le specie protette, ci sono circa 20 cosiddetti gruppi tematici che riguardano queste varie discipline, a seconda di dove si va delle zone ci sono gradi diversi di, come si dice, la parola chiave è armonizzazione. Perfetto, insomma, quindi l'esercizio è come, diciamo, pian piano migliorare queste attività, non a fini accademici o a fini burocratici, ma perché nel momento in cui si ha un problema, vedi per esempio protezione civile, sapere immediatamente dove reperire le mappe corrette e poterle sovrapporre e incrociare in tempi brevi è importante. facebook.com/l'altra Europa se volete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, se volete mandarci anche messaggi, suggerimenti in diretta, oppure potete farlo al 349-238-6666 via SMS. Siamo in collegamento con Andrea Giacomelli, lui presiede un'associazione di promozione sociale che si chiama attivarti.org e in questi giorni è a Edimburgo per seguire questo convegno sulla cartografia europea. Andrea, non solo mappe, ma anche mappe umane, diciamo mappe antropologiche. Cosa succede? Raccontaci un po' di sfumatura, perché fa ridere anche pensare a questi 700 tecnici lì attorno a guardare le loro carte geografiche, poi però c'è anche un lato umano che esplode, credo, in questi incontri. Sì, beh, ma come dappertutto, diciamo, la variabile è che secondo, cioè, avendo da giovane fatto una parte di Erasmus come studente, magari uno ritrova che in qualsiasi ambito comunitario c'è una situazione dove le persone da un lato credono di conoscersi più di quanto pensano, perché ci si parla sempre di Europa, quando poi ti trovi nel dover affrontare situazioni vengono fuori anche aspetti curiosi. Oh, in pratica, anziché fare tante riunioni complicate, discussioni lunghe rispetto ad alcune questioni di incertezze, di chiarimenti interni rispetto a confronti che ci sono su tante problematiche legate a questa direttiva, ho detto anziché fare una riunione di 3 giorni organizziamo una partita di calcetto, per esempio. Da bravo italiano, hai trovato la chiave più semplice. E invece questo ha scatenato qualcosa? Sì, ha scatenato anzitutto che siccome uno dei, diciamo, principali necessità ora rispetto al lavoro che si sta facendo più importante, che è quello di produrre le cosiddette specifiche dati per la direttiva, qui stiamo cercando di fatto dei volontari per fare da collaudatori nell'ambito di istituti cartografici, ditte di software geografico e quant'altro, alcuni dei giocatori hanno detto ora verrò a fare il volontario per collaudare i tuoi dati, per esempio. O anche altre persone che non hanno giocato sicuramente sono state da un lato spiazzate da questa modalità così di riunione non convenzionale, ma nemmeno troppo strana, perché poi chiunque lavori fa tornei interaziendali, no, non è niente di esotico, eppure il fatto di portarlo in questo contesto finora non era mai successo e è piaciuto, tanto che già siccome l'anno prossimo, questa è una conferenza annuale sempre verso fine giugno, l'anno prossimo sarà in Turchia, e quindi già ora tutti sull'onda dell'entusiasmo, cioè ora chissà cosa organizzerà Andrea in Turchia, ora è un po' prematuro, però vediamo. Ok, grazie davvero Andrea, insomma lì terminano oggi i lavori o sono già terminati? Sono finiti ieri pomeriggio. Perfetto, oggi quindi. C'è così una coda di affaticamento. Ok, grazie davvero, alla prossima. Grazie. Ciao Andrea, ciao ciao ciao ciao. Europostet, Festival Internazionale di Edimburgo. Il Festival Internazionale di Edimburgo è uno dei festival più famosi tra i tanti che la grande città scozzese ospita in estate. A partire da agosto, la città si anima di spettacoli di teatro, ma anche opera, musica classica e balletto, attirando artisti di fama internazionale e ovviamente anche spettatori e appassionati da tutto il mondo. Il tema di quest'anno è l'Asia, con artisti che vengono da Cina, India, Giappone, Corea e Vietnam. In contemporanea, gli spettacoli si svolgono anche workshop e mostre. Affrettatevi a prenotare perché i posti vanno a ruba. Biglietti e ingressi si possono trovare online sul sito del festival eif.co.uk. There's a united front for the cameras, but behind the scenes, this is one of the most testing times the EU has ever known. The bloc's leaders have wound up what's been described as a frustrating summit in Brussels, overshadowed naturally by the Greek debt crisis. E con questo servizio di Euronews entriamo nell'argomento scelto da Euronet questa settimana, ogni settimana appunto un argomento di attualità comune che cerchiamo poi di affrontare con voci diverse e contributi diversi. Questa settimana si parla della crisi greca, un test importante per l'Unione Europea. Ormai sono mesi che la crisi greca appunto spaventa l'Europa, tante posizioni diverse, tanti interventi, tanti dibattiti anche all'interno dei singoli stati. Quindi volevamo capire quello che sta accadendo e quella anche che è un po' la percezione nei singoli stati rispetto alla Grecia e viceversa. La Grecia si sente isolata, si sente aiutata, si sente implementata in questa Unione Europea. E per affrontare insieme queste riflessioni abbiamo invitato un giornalista, un collaboratore greco in Italia della televisione ellenica, e diamole il benvenuto a Dimitris Degliolanes. Ciao Dimitri. Buongiorno a voi. Dimitri, non Dimitris, giusto? Sì, è lo stesso. È lo stesso, perfetto. So che sei a Atene però in queste ore. Sì, mi trovo ad Atene per lavoro. Ok. Dimitri, non è facile affrontare la crisi greca, no? Perché sono mille prospettive diverse e quotidianamente anche cambiano le cose. Cerchiamo di fare una fotografia però. Oggi cosa stai respirando lì ad Atene? Qual è un po' la visione, la sensazione? Cosa si può mettere tra parentesi questo ora e com'è questo ora? Beh, oggi la città si è svuotata perché una buona parte degli ateniesi ha preferito andare al mare, passare il weekend al mare, però passando dal centro della città, Piazza Sintagma, che è la grande piazza che sta di fronte al Parlamento, ancora si sente l'odore dei lacrimogeni e degli agenti chimici che sono stati usati a tonnellate, sì, tra martedì e mercoledì, in un assalto forsennato della polizia per cercare di sgomberare questo movimento degli indignati che da 4 settimane troneggiava in questa piazza, contestando il sistema politico nel suo complesso. Oggi è una giornata calma, ma c'è stata la tempesta prima. Sì. E secondo te, cioè, appunto, adesso il popolo è stanco, i cittadini insomma sono stanchi perché la crisi c'è, perché si sente, perché sono mesi ormai che insomma si convive con questo stato. Che rapporto hanno con l'Europa? Cioè, la sentono vicina a questa Unione Europea? La sentono come una cosa ingombrante? La sentono come un'opportunità? C'è una visione comune? Guarda, mi è stato pubblicato un sondaggio che è stato fatto una settimana fa rispetto al tasso di consenso dei greci rispetto all'euro, sì, ed è risultato che il tasso di consenso dei greci verso l'euro è ancora abbastanza alto, mi sembra che si aggiri intorno al 57-60%. All'epoca dell'adesione della Grecia all'euro era tra i primi tra i paesi dell'eurozona, ai livelli più alti. Sicuramente l'atteggiamento verso l'Europa è di grande aspettativa, mm-hmm, e di grande come si può dire, gratitudine verso il sostegno che viene dato. Quello che l'opinione pubblica greca chiede tanto dall'Europa quanto dalla classe politica greca, con maggiori speranze verso gli europei, perché le la considerazione dei politici greci è piuttosto a livelli piuttosto bassi nell'ultimo anno, e di accanto all'aiuto che viene dato per risolvere il problema dell'indebitamento, quindi la parte finanziaria del problema, di fare uno sforzo anche di fantasia, di creatività per contribuire a risolvere anche il problema dello sviluppo. Va certo. Bene, pagheremo i nostri debiti, però per cortesia diteci come, aiutateci a risollevare l'economia, a non rimanere un paese se per sempre indebitato. Quindi non intervenire solo sull'emergenza, ma dare appunto anche delle prospettive. Europost-it. Festival di Atene. Una grande festa che si ripete da 56 estati e che ha ospitato negli anni le più grandi stelle della musica, della danza e dell'arte. Il Festival di Atene e dell'Epidauro durerà per tutta l'estate fino ad ottobre. Una esposizione di arte contemporanea che ironizza sui mostri creati dalla moda. Un tributo a Gustav Mahler da parte della Filarmonica della Scala. Carlo Goldoni interpretato da una compagnia greca. Spettacoli di danza in un caravan. Riedizioni di Tchaikovsky da parte dell'Opera del Bolshoi. Sono solo alcuni dei tantissimi spettacoli e mostre che il festival propone in giro per tutta la città. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tanti eventi, infatti, sono gratis. Trovate tutto su greekfestival.gr. Eccoci qua ancora con Dimitri degli Olanes, stiamo parlando della crisi greca. Tu Dimitri spesso sei anche in Italia, leggi i quotidiani italiani e segui quindi l'attualità italiana. Come viene raccontata la crisi greca? Secondo te in maniera corretta, in maniera coinvolta, o c'è un giusto distacco, o ci sono tanti luoghi comuni anche che si accompagnano? No, né luoghi comuni né distacco. Io penso che la difficoltà maggiore per gli osservatori, per i colleghi che seguono la crisi greca, sia nel interpretare, diciamo, alcune dichiarazioni, alcuni comportamenti, alcune uscite. Qualche tempo fa c'è stata una dichiarazione della commissaria greca all'Unione Europea, alla Commissione Europea, e allora tutti hanno pensato che era una dichiarazione di volontà di uscire dall'euro, certo. oppure non si capisce la polemica che c'è tra governo socialista e opposizione conservatrice. No, devo dire, insomma, che viene seguita con grande interesse, anche perché de te fabula narratur, come dice il poeta, però insomma c'è una difficoltà a capire la situazione, la politica interna, a capire insomma un pochettino i termini dello scontro politico che c'è dietro alla crisi, ma d'altronde insomma è normale che sia così. Penso ai miei colleghi corrispondenti che stanno a Roma e che cercano disperatamente di interpretare la politica italiana. Sì, no, infatti, quindi hanno già il loro bel da fare, dici? Sì. Ok, grazie davvero Dimitri, ma in questo momento stai lavorando a cosa? Così per farci un po' gli affari tuoi? No, io in verità sono venuto perché avevo delle scadenze, delle interviste da fare per altre cose e tornerò domani. Insomma, è stata una breve assenza dal fronte lavorativo per ragioni... Grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buona giornata. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ladies and gentlemen, this is the bike of honor. It is reserved for only a very few riders of honor who will get up on the bike, take a spin on this very new and innovative mobility bike powered with an electric motor. And after they've been driving this bike of honor, they will sign the frame. And this bicycle serves as a symbol which will go from one country to the next. And by the end of the trip, it will have gone through 12 different countries and riders of honor have all signed the bicycle. Quello che state ascoltando è un video di presentazione di un'iniziativa laterale a un evento che è partito oggi o ieri, una sorta di viaggio in bicicletta, 2 mesi in bicicletta per l'Europa, dove tutti possono partecipare per un'ora, per un giorno, per una settimana. E l'idea è quella di portare proprio all'interno del continente, all'interno dell'Unione, sottolineare l'importanza dei diritti. Ride for your right è il nome dell'iniziativa, è stata ideata da un ragazzo austriaco di origine polacca e tantissime università coinvolte per l'Italia, c'è cioè quella di Trento. Ma per capire bene che cos'è questa pedalata sociale, chiamiamola così, abbiamo invitato uno dei ragazzi che ha partecipato dato all'organizzazione. Lui forse pedalerà giusto verso la tappa finale. Diamo il benvenuto a Juan Fernandez Cantero. Ciao Juan. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, che cos'è questa iniziativa che è molto ambiziosa, anche perché è lunga, perché è importante, perché coinvolge tantissime istituzioni? È un bike tour, sì? Allora un giro in bicicletta per tutta l'Europa, che nasce grazie a Julian Valkoviak, il presidente di questo consiglio di studenti, di studenti di Campus Europei. Sì. E grazie tutto a una fondazione che comprende più di 15-20 università di tutta l'Europa e non solo l'Unione Europea, per creare un senso di necessità di indipendenza studentesca e per fomentare la mobilità. Certo, sì, questa mobilità mi sembra il termine assolutamente adatto. Si parte da Novi Sad e si arriverà a San Pietroburgo. Il tour attraverserà la Croazia, l'Ungheria, la Slovacchia, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Lituania e la Lettonia, Estonia e Finlandia nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011. E davvero si può partecipare, si può aggregare in ogni momento. C'è il sito con tutta la mappatura che è www.rideforyourrights.org, il link è già nella nostra pagina in Facebook. Juan, ma si pedala e basta o in ogni tappa ci sono anche degli eventi collaterali? È pianificato fare workshops, sì, conferenza in ogni tappa. Tutti coloro che non vogliono montare sulla bici possono pure andare a questi eventi e partecipare attivamente, che sto dando le sue voci, le sue opinioni o contribuzioni al rispetto. Perfetto. Il cuore ovviamente è un cuore universitario, sono gli studenti che hanno insomma dato il via a questa iniziativa, però si possono aggregare tutti, no? Adulti, famiglie, giovani, è aperto veramente a tutti. Sì, è veramente aperto a tutti. Uh-huh. Vogliamo che la società sappia di questo problema e delle necessità degli studenti e insomma per creare un migliore futuro all'interno dell'Unione Europea e migliori opportunità. Certo, quando si parla di mobilità si parla di Erasmus, si parla di possibilità che i giovani devono e possono avere per fare esperienza all'estero, per contaminarsi, no? Perché comunque le culture, la cultura dell'Unione anche la si fa vivendola questa Unione, e l'università è sicuramente un terreno fertile e un'ottima opportunità, quindi l'idea è proprio di andare a sottolineare queste possibilità. Juan, e tu perché non vai a pedalare? Perché io sono in Spagna, sì, però nonostante sì che verrò all'ultima tappa per, così, per partecipare attivamente pure io e per partecipare nelle ultime conferenze. Okay, a parte io da Alcalá, sarò a provvedere aiuto della mia disposizione perché tutto vada bene, tanto che non si può essere dappertutto, voglio dire, ti serve un aiuto esterno per un esito favorabile, diciamo. E certo, insomma, c'è anche un supporto, c'è tutta un'organizzazione che segue questa manifestazione, quindi siete tante le persone coinvolte e c'è bisogno anche di qualcuno appunto che non vada a pedalare ma stia in ufficio a seguire il giorno per giorno. E mi dispiace tantissimo. ci credo davvero. Grazie davvero ancora. Allora, ancora il sito rideforyourride.org oppure www.esne.org, e già caricate sulle nostre pagine facebook.com/l'altra Europa. E ciao Juan, grazie davvero. E grazie mille. A te e a tutti i tuoi colleghi che lavorano come supporto a questa pedalata. Un grazie anche invece a chi ha dato supporto a me per la realizzazione di questa puntata, a Claudia Carusi che con me ha scritto il tutto, con la collaborazione di Margherita Ina, in assistenza oggi Viola Bottoni, Alessandro Ballia, in regia Paolo Corleoni. Con l'Altra Europa ci ritroviamo sabato prossimo, con me invece vi ritroverete domani pomeriggio alle 17, 2 ore insieme con Mine Vaganti. Ancora ciao da Federico Taddia.